La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Una volta la gente che doveva attraversare la montagna prima di farlo si fermava qua e attendeva. Cosa? L'incanto. Cosa? L'incanto. Non so chi ha incominciato a chiamarlo così, ma era considerata come una specie di spirito buono, di protezione, di compagno di strada che stava con i viaggiatori fino alla fine dello scavalcamento della montagna. E ora anche noi lo attendiamo. Sapete, io sono nato da queste parti e so riconoscerlo. Ben ritrovati amici, Franco d'Assisi in studio a questo spin-off della Rosa Purpurea, che sono le interviste della Rosa. Avete sentito un brano di una gita scolastica di Pupi Avati ed è il brano con cui ho voluto cominciare questa nostra chiacchierata con Pupi Avati, perché questa descrizione dell'incanto trovo che sia una delle cose che forse appartengono anche al cinema di Pupi Avati, proprio l'incanto. E allora salutiamo al telefono con noi Pupi Avati. Ciao Pupi! Ciao Franco, ciao a tutti! Allora, una gita scolastica, il grande Carlo delle Piane, e questa storia dell'incanto, che è qualcosa... che sembra essere una sorta di spirito che aleggia sull'Appennino quando Carlo la racconta. Che cosa c'è stato dentro il tuo cinema di questo concetto? C'è stato questo non voler perdere questo rapporto con l'adolescenza, con la giovinezza, con una stagione della vita che io ho avuto la sensazione di vivere troppo frettolosamente, con troppa precipitazione, con una voglia di crescere stupidissima, di diventare adulto, di uscire da quella stagione senza rendermi conto che invece era lì che si annidavano tutte le delizie del vivere. E adesso col tempo, dopo i 30 anni, dopo i 35 anni, un po' prustianamente sono tornato indietro e grazie a questo strumento magnifico che offre le mani, che è il cinema, ho ricostruito un po' quella stagione. Insomma, molti dei miei film la ricordano, la richiamano, la rievocano, la rimettono in scena. Quello strumento che tu hai usato per tante volte, mi sembra quasi 50 ormai, come 40, 42. Ecco, come regista hai una produttività pari a quella di Frank Zappa nel rock, diciamo così. Però, è un'arte, quella del cinema, che diciamo così non è stata il primo amore, il primissimo amore. Il tuo primo amore è stata la musica. Sì, io purtroppo sono, come forse qualcuno sa, perché l'ho raccontato più e più volte, addirittura anche attraverso un film che si chiamava Ma quando arrivano i ragazzi, io purtroppo non avevo il talento sufficiente per diventare un buon musicista, un grande musicista, come avrei desiderato e voluto. Malgrado l'applicazione, l'impegno e una passione sconfinata, non sono riuscito a farcela. La musica non mi amava quanto io amavo la musica, e quindi a un certo punto ho chiuso questo clarinetto nel suo astuccio e sono andato a fare il venditore di pesci surgelato, quindi mi sono allontanato anni luce da quello che era il mondo dei sogni, della creatività. Senti, ma è vero quello che dicono le cronache, che la tua uscita da questa Dr. Dixie Jazz Band nel 62 è stata dovuta all'ingresso di Lucio Dalla, o è stato solo un caso? Sì. No, è assolutamente vero. Io sono stato, ahimè, nella mia ingenuità, nella mia innocenza, mettendomi in casa questo ragazzino, credevo del tutto innocuo e mi sembrava del tutto negato, del tutto non musicale. Quindi di nessuna preoccupazione, suonavo il mio stesso strumento e invece mi sono messo in casa Mozart, capisci? Io ero Salieri, quindi è nata una competitività micidiale, per cui lui ogni sera suonava sempre meglio e io regredivo, perché l'invidia faceva sì che io praticamente vedessi paralizzata quel poco di musicalità che avevo. Si andava via via scemando fino a quando non mi sono arreso. Ho pensato addirittura che l'unica soluzione che potevo avere era quella di ucciderlo, buttandolo giù da una famosa celeberrima cattedrale di Barcellona, la Sagrada Famiglia. Fortuna che non l'ho fatto, perché abbiamo questo grande cantautore vivente tuttora e io non sono andato in galera. Ragazzi, lui è Big Spider. Ciao, buongiorno, benvenuto. Dove va? Attenzione, ok ragazzi, ora proviamo I Didn't Know, il numero 7. Ne incidiamo una, poi stasera la suoniamo anche in trasmissione. Bix, saranno contenti i tuoi a casa, no? Siete pronti? Pronti? Guarda che non è quello lo spartito. Oh, grazie. Tanto è lo stesso. 1, 2, 3, 4, 1. Ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Eddie, guarda che stavo per fermarla io questa prova. E perché non l'hai fatto? Si può sapere che merda stai suonando tu? Beh, quello che suonano tutti, no? A modo mio. Ah, a modo tuo. E secondo te noi spendiamo centinaia di dollari negli arrangiamenti perché tu ti ci pulisca il culo? Era anche lui un ragazzo di talento, Bix Beiderbecke Puppi, sì, e tu gli hai dedicato un film. Sì. Ecco, è una figura bellissima questa di Bix, perché è musicista bianco che rivaleggiava con quella che era, diciamo così, la genia e la genialità della musica black nel jazz americano. Sì, lui è addirittura di origine tedesca, una famiglia emigrata da Davenport. Non l'emigrazione povera, ma l'emigrazione dei banchieri, quelli che portano i soldi, investono i soldi, e lui è arrivato là in questa città sul fiume e ha sentito venire dai battelli che provenivano da New Orleans questa musica strana e così seducente che era appunto il jazz dei neri. E lui, che era di una famiglia invece di musicisti, perché sua madre era una grande pianista, suo nonno era il direttore del coro. Quindi questa musica per loro era veramente la musica dei neri, ma detto in senso negativo, e quindi lui ha trascorso praticamente la sua breve esistenza, è morto alcolizzato a 28 anni, nel cercare di tenere insieme questi suoi grandi affetti, uno per la famiglia e l'altro per questa musica per la quale aveva questo straordinario talento. Ecco, Pupi, facciamo un bel salto indietro. Ho preparato una clip che adesso non so quanto tempo è che tu non la senti. Sentiamola insieme. Ma oh, era ora, è da stamattina che sto sotto il sole a mangiar polvere. Fra tanti bastardi, qualche anima buona si trova ancora, se Dio vuole. Un momento. Oh, ma cosa fai lì sopra? Sei diventato matto? Perché? Non vuoi darmi il passaggio? Hai già cambiato idea, eh? Accidenti! Grazie tante, prendere in giro un povero vecchio. Balsamus, uomo di Satana, niente meno, l'esordio di Pupi Avati, 1968. Una cosa. 12 settembre 1968, primo Chuck sulla Balvanese, questa scena qua, proprio questa che hai scelto tu. Incredibile, ma ti chiedo, visto che tu hai anche creato un genere, magari senza saperlo in quel momento, ma poi gli hanno dato un nome, è diventato un genere, cioè il gotico padano, no? Sì. Pupi Avati comincia la sua carriera di regista con l'horror reinterpretato anche in chiave territoriale, quasi dialettale in un certo senso, con questo film Balsamus, ma poi ovviamente con quel capolavoro che è La casa delle finestre che ridono, Zader. Ecco, dove attingevano le tue radici? In quale orto dell'horror ti eri coltivato? Insomma, è sufficiente vedere la mia carta d'identità, il mio passaporto. Io sono nato nel 1938 a Bologna, e quindi è evidente che, essendo nato praticamente nel periodo immediatamente prebellico, ho trascorso i primi anni della mia esistenza, per motivi proprio bellici, sfollato in campagna. E in campagna in che modo sono stato educato? Attraverso la favola contadina, che era una favola orrorifica, che era una favola che usava, il cui deterrente era la paura. Cioè, noi ci raccontavano delle favole veramente terrificanti, non avevano nessun sfondo etico morale, erano veramente soltanto fatte per spaventarci, per mandarci a letto e farci stare buoni in queste stanze buie, nere, immense, sconfinate, che noi riempivamo con la nostra immaginazione. Io credo che se ho un po' di immaginazione e se riesco a raccontare un po' di storie, probabilmente un po' più degli altri, è perché sono cresciuto veramente, sono stato educato veramente nella paura, che la paura produce veramente una fantasia, una capacità di fantasticare che altri non hanno. E questo fatto che rassicuriamo così tanto i nostri bambini, che evitiamo che si spaventino, secondo me non è così totalmente giusto. Questa a livello pedagogico è un'interessante sfida effettivamente, però c'è la paura appunto alla base della capacità di raccontare, della narrazione di Pupi Avati, ma c'è anche l'amicizia, un'amicizia che quasi fratellanza, un'amicizia molto spesso virile, e di tutta questa amicizia chiaramente si ciberà il cinema di Pupi Avati soprattutto all'inizio degli anni 80, e noi ne parleremo fra poco. La Rosa Purpurea. Ancora insieme qui alle interviste della Rosa Purpurea, siamo con Pupi Avati che ci sta raccontando un po', insomma, di quegli anni ruggenti, anni 70, in cui un po' con degli horror in salsa padana, un po' anche con un film particolare come Bordella, un altro film quasi surreale, perché raccontava, è una sorta di musical con un giovanissimo Christian De Sica, con Gigi Proietti, e raccontava con una grandissima capacità di anticipare i tempi, quello che sarebbe diventata in un certo senso anche la società italiana. Allora io chiederei alla regia di farci ascoltare un piccolo frammento di questo film Bordella che abbiamo isolato. Sentiamo. Tre attività più intonate ai tempi in cui viviamo: il racket della prostituzione, dei sequestri di persone, delle droghe leggere e pesanti e della pornografia a tutti i livelli. Noi ci proponiamo di stimolare tutte queste iniziative multinazionali per restituire intatto all'America l'antico prestigio. In concreto, fra breve, questione di giorni, comincerà a operare la prima delle multinazionali che costituiranno la nostra nuova frontiera, l'American Love Company. America spacciatrice di felicità è il nostro motto. Dateci dentro, ragazzi! Beh, Pupi, più anticipatore di così davvero non si può, insomma. Fa un certo effetto sentirle oggi queste cose. Siamo denunciati, lo sai questo, no? Denunciati? Raccontiamola sta cosa. Denunciati e condannati per oscenità. In realtà credo che ci fosse una sorta di disappunto da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti, perché insomma era inclusa nello sfottò generale anche come tu hai fatto sentire. Questo era Kissinger che stava proponendo questa American Love Company, che attraverso delle case di tolleranza in tutto il mondo avrebbe diffuso il nuovo verbo, il nuovo Vangelo. E venimmo sequestrati e condannati per oscenità un anno e 9 mesi, quindi fu una cosa anche molto pesante. Poi il film fu sparito dalla circolazione, e malgrado una partenza folgorante, perché aveva battuto la prima sera tutti i record di incassi, quando riuscì 2 anni dopo, poi in realtà fu invece un disastro. Ecco, avevo fatto cenno alla fine della prima parte appunto alla matrice dell'amicizia maschile, sì. In particolare, no? Tu hai avuto un film, a mio modo di vedere, molto bello e forse da rivalutare, anche da rivedere, perché tanto che non si vede che era Impiegati, che era, sì, un film che andava ad analizzare anche i propri rapporti umani e come questi venivano modificati dal luogo di lavoro, ed era un film molto molto interessante. Poi arrivò Festa di Laurea, e Festa di Laurea, insieme a una gita scolastica che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, è forse, non so se tu sei d'accordo, la parentesi del Pupi Avati narratore più maturo, cioè il momento in cui tu diventi un narratore a tutto tondo, universale, capace di raccontare. Ma questo non lo so, quello che tu dici mi lusinga molto, il fatto che tu abbia apprezzato, che tu apprezzi Impiegati, in effetti sì, insomma io sono contento che tu lo rammenti, perché è un film che per allora era abbastanza, credo, anticipatorio, nel senso che poi innanzitutto era la mia prima incursione nel presente. Io avevo fatto soltanto film che guardavano molto al passato, ma non avevo mai fatto film sul presente, e per fare un film sul presente avevo la necessità di trovare un osservatorio, un pretesto, un contesto che insomma lo dicesse e lo rappresentasse al meglio. È evidente che 10 anni prima probabilmente sarebbe stata la fabbrica, ecco, il mondo operaio a rappresentarlo. Ecco, il mondo delle banche, degli impiegati, degli uppis era nel frattempo emerso, era diventato in qualche modo il più rappresentativo, e raccontando appunto quel contesto lì, ho raccontato, ho cercato di raccontare il paese, come poi ho fatto successivamente con Ultimo Minuto, attraverso uno spogliatoio di una squadra di calcio, con Regalo di Natale, attraverso una partita di o con Festival, insomma via via ho sempre cercato di aggiornare questa mia riflessione sul presente, trovando sempre dei contesti che in qualche modo li, dei microcosmi che in qualche modo li dicesse tutti. Credo che si fosse dimenticato. Dimenticato? Si figuri, sono 10 anni, signora. 10 anni esatti. Sì. Venga. Ci sarebbe mio figlio, collabora con me, posso farlo venire? Ma certo. Grazie. Dai, muoviti. Ho fatto. Ho le braghe tutte larghe. Dai, venite. Questo è mio figlio Nicola. Visto come è cresciuto? Sì. Ma certo, lei se lo ricordava più piccolo. Caro Delle Piane e Nick 900 in una scena di festa di laurea. Pupi, Nick 900, Carlo Delle Piane, Marcello Cesena, Diego Battantuono, Gianni Cavina. Tu hai portato nel cinema il concetto della squadra. Cioè, qual è il tuo rapporto con gli attori e perché hai avuto questa capacità o anche voglia di stare spesso con gli stessi attori? Ma era una necessità in qualche modo di essere rassicurato io stesso, creando un rapporto che più che professionale diventasse affettivo, e mi derivava da una mini lezione che mi impartì Vittorio De Sica. Quando lo incontrai una volta, io dovevo fargli d'aiuto regista per una biografia che avrebbe dovuto girare su Rodolfo Valentino con Rudolf Nureyev, lui era già malato, poi il film non si fece. Ma ecco, durante quell'incontro gli chiesi: ma lei come fa? Io considero, sappilo Franco, che considero De Sica e Germi i migliori direttori d'attori che il cinema italiano abbia avuto al momento. E allora chiese De Sica, approfittando di quell'incontro, di che: ma come fa lei, maestro, ad avere così tanto, ottenere così tanto da tutti gli attori, quelli straordinari e quelli meno? Sono tutti assolutamente intonati, tutti sono tutti portatori di una verità. E lui mi disse, amandoli, lei veramente, Avati, cerchi di dimostrare il loro affetto, perché sono le persone più insicure e più incerte del mondo, poi nel limite del loro talento le daranno il loro meglio. Ed è stato così nel mio rapporto con gli attori, ancora oggi è così. Io provo una sorta di veramente di riconoscenza nei riguardi di quelli che siano Silvio Orlando, Albanese, Marco Re, Bentivoglio, insomma chiunque essi siano. Ecco, che in quel momento si appropriano del personaggio che ho immaginato, dicono quelle battute che ho scritto, e quelle battute che ho scritto diventano carne, diventano emozione, diventano vita, diventano sangue, diventano qualcosa per cui io mi commuovo o rido. Ecco, io provo questo tipo di rapporto, di riconoscenza nei riguardi di questi esseri umani, e per questo forse che io con gli attori ho questo tipo di corsia preferenziale, che risale appunto ad allora, quando decidemmo in pochi, in un gruppuscolo, di sfidare in qualche modo il mondo. Poi via via il gruppo fortunatamente si è ingrossato. E allora, aspettando il nuovo film di Pupi Avati, 4 novembre, Il cuore grande delle ragazze, noi ringraziamo Avati per averci raccontato e averci aiutato a rivivere le emozioni del suo grande cinema. Grazie Franco e grazie a tutti, arrivederci. La Rosa Purpurea. Eccoci qui alla Rosa Purpurea, Franco D'Assisi in studio, l'ora di cinema settimanale di Radio 24, con tutta l'attualità sul grande schermo in questo fine settimana. Sotto il profilo delle uscite è un fine settimana abbastanza interlocutorio, non grandissimi film, tranne un caso in termini almeno di attese, parliamo ovviamente di Transformers 3, e poi anche uscite abbastanza marginali, abbastanza periferiche, non con una diffusione capillare a livello nazionale. L'estate arriva estiva si fa sentire, e lo vedremo fra poco anche analizzando gli incassi dello scorso weekend, e si comincia un po' a dover andare a raccogliere qualche spunto anche altrove. Noi l'abbiamo fatto, parleremo in questa puntata anche di due grandissimi maestri del cinema come François Truffaut e Charlie Chaplin, perché ci sono notizie che li riguardano. Ma cominciamo subito con il riassunto dei temi principali della puntata, nei nostri titoli di testa. L'ingenuo agente assicurativo Tim Lippi si ritrova a una convention di assicuratori dove proverà esperienze mai fatte prima. È la storia di Cedar Rapids, divertente commedia con Ed Helms. Arriva un nuovo capitolo della saga di Transformers. Il terzo episodio vede contrapposti i buoni Autobot e i cattivissimi Decepticon per l'eterna lotta tra il bene e il male e la conquista della Terra. Dopo vicissitudini cinematografiche e giudiziarie, approda tardivamente in sala Giallo Argento, l'ultimo film del regista di Profondo Rosso, con il premio Oscar Adrien Brody. Charlie Chaplin fa parlare ancora di sé, ritrovati dalla Cineteca di Bologna importanti appunti del grande regista. A raccontarci questa incredibile scoperta, l'autrice del ritrovamento, Cecilia Cenciarelli. Ebbene, questi contenuti della puntata, noi cominciamo subito con il primo film che vogliamo proporvi. Si intitola, nel titolo completo italiano, Benvenuti a Cedar Rapids. In realtà il titolo originale è solo quello di questa località, appunto, Cedar Rapids, una storia passata attraverso il Sundance Film Festival di Robert Redford, che racconta in chiave di commedia la storia di un venditore, di un commesso viaggiatore, come avremmo detto in altri tempi, che viene inviato in una località, appunto Cedar Rapids, per come dire, esaltare le bontà e le beltà della propria azienda. Però quest'uomo demotivato, un po' di mezza età, troverà in questa location ben altri motivi di sollazzo. E visto che abbiamo parlato di sollazzo, abbiamo Boris in linea. Ciao Boris. Ciao Franco, non male come assist. Beh, insomma, ce l'abbiamo fatta. Insomma, potremmo dire come d'assist, così saremmo 1-1. Ma insomma, cerchiamo di evitare il calembur. Il fatto che tu fossi il capo te l'avevo solo suggerito, perché ho detto magari... Senti, allora, parliamo un po' di questo film. Anzi, facciamo così, ascoltiamo prima una clip che ci porta un po' dentro anche il clima di questa pellicola e poi lo affrontiamo. Sentiamo. Quanti anni avevi? 16? Ho pensato, questo è un ragazzo che farà parecchia strada, e invece chissà perché non è andata così. Io non so se... Devi andare a Cedar Rapids e dimostrare che la Brown Star è un'ottima compagnia. Oh, fantastico! Incredibile, ci sono le palme e c'è puzza di cloro dappertutto. Sembra di essere a Barbados o non so dove. La convention degli assicuratori è importante. Puoi contare su di me. Ma stai alla larga da Dean Ziegler. Due di tutto nel mio minibar! Ehi Ned, stai discutendo i preliminari, auguri! Geronimo! Che c'è bello? Non hai mai visto una mucchiata crema caffè? E beh, questo vi dà un po' l'idea, il pre e il dopo. Alla regia c'è Miguel Arteta, ma soprattutto davanti alla telecamera ci sono il protagonista Ed Helms, John C. Reilly nei panni dell'amico un po' pazzoide di questa location strana nel quale il protagonista si viene a trovare, e anche addirittura Sigourney Weaver, insomma, come dire, un cast che ha i suoi quarti di nobiltà. Come procede e come funziona questa commedia, Boris? Guarda Franco, il film è particolare perché da una parte soffre secondo me di alcuni stereotipi della malincommedia americana o della commedia americana, adesso dal trailer sembra più demenziale di quello che realmente è il film. Uno di questi difetti è confinare un attore straordinario come John C. Reilly sempre nello stesso tipo di personaggio. C'era riuscito Cyrus a tirarlo fuori e sarà dimostrato quanto era bravo, però insomma uno come lui, che è uno degli attori migliori, è sempre costretto a fare queste partite con primario. Vale anche per Anesh, che è un'altra che fa delle componenti del trio maledetto tra virgolette che incontra Ed Helms. Il film si fa voler bene, c'ha i suoi difetti, è un film un po' gretto soprattutto nella sua parte estetica e in qualche momento della sceneggiatura, però è anche vero che è molto divertente vedere quest'uomo che non è abituato a viaggiare, andare a questa Cedar Rapids che viene considerata, cioè un posto di vacanze, viene considerato quasi una sorta di stretto di Gibilterra, oltre cui una sorta di colonna Ercole, oltre cui non andare. Divertente anche questo romanzo di formazione di un uomo che è di mezza età e in qualche modo vive l'adolescenza in tre giorni un po' folli. Alla fine mi sento di consigliarlo perché è un buon modo per passare del tempo e anche dei momenti di intelligente divertimento, quindi è una di quelle piccole sorprese che si trovano d'estate quando magari i fondi di magazzino permettono di trovare delle cose dimenticate o che non si è avuto il coraggio di proporre in altre stagioni. Certo, mi prendo qualche piccola distrazione, l'antiquariato. Sotto con gli sciattini! Ok, Maraschino. Maraschino? Sei strano forte! Sembrici uno piotto. Lui non faceva così. Ho fatto l'amore con un'altra. Non era molto carina. Aveva la bocca che sapeva di portacenere. Se vuoi sopravvivere in questo settore, devi ballare con la tigre. E come si convince la tigre a ballare? Tu prova a farle vedere un po' di tette. Non voglio sapere niente. Questa è una delle scene più divertenti del film. Diciamo anche, Boris, riguardo a quello che dicevi appunto dei fondi di magazzino, che è vero, è capitato anche negli ultimi anni, ma capita sempre. Quando arriva questa stagione e comincia ad approssimarsi l'estate, vengono tirati fuori film che forse con un po' più di coraggio e un po' più di spinta potrebbero tranquillamente albergare in zone più nobili della stagione cinematografica. Mi ricordo Flash of Genius, tanto per me ne viene in mente uno di forse l'anno scorso, sempre di questi tempi, film a mio modo di vedere veramente molto, molto bello. E anche perché qui abbiamo tra l'altro anche, come dire, il consiglio del Sundance. Io mi fido molto del Sundance Film Festival, quindi quando un film arriva da lì o è passato di lì, comunque consiglio sempre di andarlo a vedere. Dicevo, anche perché il box office non è che stia proprio, come dire, molto in salute, perché la settimana scorsa Cars 2 ha cominciato, secondo me, così, perché 2 milioni e 7 nel weekend, 4 milioni dal mercoledì, giorno in cui è uscito. Non è un gran film Cars 2. Adesso vedremo se il passaparola sarà pari agli altri o se invece si afflosserà un po', però io mi aspettavo, cioè questo film Cars 2 è un film che se esce a ottobre fa 6 milioni il primo weekend, e invece qui si è fermato a 2,7. Questo forse va anche un po' interpretato come dato. Quelli dopo veramente verrebbe da dire lasciamo stare, perché il secondo film è L'ultimo dei Templari con 417.000 euro di incasso, I Guardiani del Destino, che è un buon film da andare a vedere, 300.000 e 1 milione come incasso globale, e poi via via tutti gli altri. Anche X-Men l'inizio sta andando malissimo in Italia, 154.000 euro nel weekend, 2,5 milioni nel totale, ed è veramente pochissimo per un film della saga di X-Men. E andando anche avanti ci sono altri motivi di doglianza, per esempio purtroppo The Conspirator di Robert Redford è partito malissimo in Italia, 97.000 euro, 115 di incasso globale, perché è uscito giusto un giorno prima in un paio di cinema. The Conspirator è un film, quello di Redford, che aveva bisogno dell'autunno, aveva bisogno del freddo, non è una tematica estiva quella dell'assassinio di Lincoln, insomma, per intenderci. Ecco, in queste pieghe forse un film come Cedar Rapids potrebbe anche trovare, se sostenuto adeguatamente, una buon risultato. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qui, Rosa Purpurea. Dobbiamo parlare di Transformer 3, ma prima appunto avevo lasciato sospeso un commento con Boris su questa analisi. C'è una classifica davvero, davvero deprimente dal secondo posto in giù, nella quale forse bisognerebbe anche riconsiderare la collocazione stagionale di alcuni film. Guarda, sono ovviamente d'accordo, aggiungerei anche che ormai la crisi economica ha riscritto le tempistiche delle vacanze. Prima aveva più senso in un paese come l'Italia, che è molto favorevole climaticamente ai viaggi e via dicendo, di questa pausa, diciamo, del cinema. Ora no, ora le città sono molto frequentate e quindi una programmazione più solida darebbe, o più equilibrata rispetto alle altre stagioni, potrebbe dare davvero un altro volto al box office. Per il resto sono d'accordissimo sulla tua analisi, sono contento che hai ricordato un film meraviglioso come Flash of Genius, che ha sofferto proprio della distribuzione estiva. Spesso e volentieri appunto ci sono dei gioielli dimenticati in estate che, proposti in autunno ma anche in primavera, avrebbero tutt'altra sorte, e spesso tocca ai film italiani, cosa che insomma fa ancora più male. Film italiani che tra l'altro, per esempio, hanno avuto la loro stagione dell'esplosione massima quest'anno a livello di commedia, con risultati assolutamente record, e che però sono assenti almeno per il momento dall'estate. Ecco, è un peccato anche quello, che un Benvenuti al Sud, per dirne uno adesso, per però identificare il genere e la tipologia anche di pubblico, non abbia rischiato un po', perché se rischia Harry Potter, se rischia Cars 2, se rischia Pirati dei Caraibi, forse anche un film italiano di quella portata poteva cercare magari un pubblico anche durante questo mese. Beh, vedremo se le cose cambieranno in futuro. Nel frattempo invece andiamoci a vedere quello che c'è, ovvero Transformers 3. Cominciamo ad ascoltare subito una clip. La nostra corsa allo spazio degli anni 60 fu in risposta a un evento. Mio Dio. Se fai parola di quello che hai visto qui, ti accuso di tradimento. Questo era un po' l'incipit, se vogliamo, da cui capire che cosa anima questo terzo capitolo della saga dei Transformers. È un film, voglio anche fare una piccola premessa personale, è una saga sulla quale io all'inizio, lo dico tranquillamente, non avrei scommesso niente, nel senso che la trovavo qualcosa di veramente lontano, proprio mi sembrava quanto di più artefatto fosse stato cercato di portare al cinema negli ultimi anni. Devo dire che avrei avuto torto, e non ne ho avuto, e che invece mi sono ricreduto vedendo Transformers 2. C'è una chiaramente siamo di fronte a un colossal di impatto spettacolare, eccetera, ma anche i colossal di impatto spettacolare bisogna saperli fare, hanno le loro regole, vanno seguite per poter funzionare. Ecco, qui diciamo che la mano di Spielberg in cabina di, non di regia ma di produzione, e quella di Michael Bay, che è uno specialista di questo tipo di film, hanno dato un ritmo, una grinta a questa saga che mi sembra anche in questo terzo film non venga del tutto dispersa, anche se poi forse magari non è il più riuscito dei tre capitoli. Guarda, per una volta siamo in disaccordo. A quanto ho capito, il secondo capitolo a te è piaciuto, secondo me. Mi ero molto divertito, sì. Devo dire che io invece avevo amato molto il primo, pur avendo le tue stesse perplessità. Il secondo mi era sembrato invece un tentativo di Michael Bay, che a mio parere non è capace in queste situazioni, di rendere più seria una struttura, un film che invece fa dell'ironia, della impossibilità delle situazioni la sua parte migliore. Qui secondo me si recupera lo spirito quasi goliardico del primo capitolo, questo Shia LaBeouf che è addirittura un precario, che può salvare due volte il mondo ma non riesce a trovare un lavoro, neanche avendo ricevuto una medaglia da Obama. C'è tutta questa parte molto divertente, i problemi con i genitori di Shia LaBeouf, c'è addirittura Michael Bay che si vendica di Megan Fox, facendo dire ai due Transformer domestici di Shia LaBeouf: preferisco molto di più questa, l'altra era cattiva. Quindi insomma c'è tutto il Bay che non si tiene, che è senza limiti. E questo è il pregio del film e anche il difetto, però, perché devo essere onesto, 156 minuti di Transformers 3 sono tanti, tanti, tanti. A un certo punto anche i più addicted degli scontri, delle guerre, dopo 40 minuti di scena d'azione tra macchine, uomini, cose, fanno fatica. E poi lasciatemi dire, insomma, una cosa sul 3D. Il 3D in questo caso ha senso, molte scene sono state girate in 3D, sono anche molto belle. Il problema è che, anche se non sono un medico, ho sperimentato su me stesso che 2 ore e mezza di occhialetti ti fanno venire un'emicrania, niente male. E questo è un problema per la fruizione del film, perché credo che chiaramente cambia anche il giudizio sul film per chi lo va a vedere. Però di sicuro è all'altezza, insomma, dell'esordio. Per chi ha amato il primo capitolo, questo Transformers è da vedere. A distanza di anni ci chiederanno: dove eravate quando hanno conquistato il pianeta? Ce la farai, te lo prometto. È finita. Mi dispiace, ma è finita. E allora andiamo a sentire i protagonisti di questo Transformers 3. Il ruolo principale, come ha già detto Boris, è ancora tutto sulle spalle e sul volto di Shia LaBeouf, che si dimostra entusiasta di questo terzo capitolo. Il terzo episodio è il migliore di tutti, perché ha la sceneggiatura più forte tra quelle che abbia mai sentito. C'è il miglior sviluppo dei personaggi di tutti e tre i film. Egoisticamente, per Sam, il mio personaggio, è anche la migliore storia che abbia mai avuto. Il suo ritmo, i suoi incredibili colpi, la sua tecnologia, questi sono gli effetti speciali più avanzati, le migliori tecniche mai utilizzate. Le dimensioni di questo film sono davvero gigantesche. E a proposito di tecnologie, per un attore lavorare su un film di questo tipo significa spesso misurarsi anche con il niente, con il vuoto, perché si fanno movimenti che non hanno in quel momento ancora uno sfondo, uno scenario, e vengono poi inseriti dopo in un contesto elettronicamente. Sentiamo ancora la Boeuf. You know, you feel silly talking to something that's not there, really. Beh, in quel momento, all'inizio, tu ti senti stupido parlando di qualcosa che in realtà non esiste. E poi, alla fine, ci entri dentro e diventa quasi un'arte differente. Non è come fare qualcosa di nuovo. E comunque devi farlo in maniera naturale. In realtà ti sembra di essere dentro a un gioco con un ritmo di qualcosa che non esiste realmente. È comunque una delle cose più divertenti che io abbia fatto in questi film. È come quando hai un attore che per 4 anni ha fatto monologhi, anche ad alti livelli, e all'improvviso si ritrova a fare qualcosa di inesplorato. Mi sono divertito comunque tanto. Boris, una delle cose forse azzeccate, divertenti di questo film è questo tentativo di riscrivere la storia dello sbarco sulla Luna attraverso questo episodio dei Transformers. Sì, assolutamente, ed è una cosa curiosa perché, vabbè, è una tentazione dei fumetti in generale in America o di qualcosa che, insomma, cerca di parlare quel linguaggio, come sono stati Transformers, che erano una serie TV e dei giocattoli. È bello perché negli ultimi anni ci è capitato spesso, Watchmen ha riscritto il periodo nixoniano, i Transformers, lo sbarco sulla Luna, X-Men l'inizio ci ha spiegato come i mutanti fossero decisivi all'interno della crisi di Cuba. Siamo sempre più al centro di una storia riscritta dai supereroi, e questo, insomma, in un mondo in cui Barack Obama incontra Spider-Man non è male. E allora, Boris, questo per quel che concerne Transformers 3. Rimani con noi perché fra poco dobbiamo affrontare, è proprio il caso di dirlo, il film di Dario Argento. Prima però cominciamo a giocare, e questa settimana lo facciamo in una maniera davvero particolare. Vuoi per l'importanza, l'imponenza, l'entità anche del Blu-ray di cui stiamo parlando, diciamo dei Blu-ray di cui stiamo parlando, vuoi per l'importanza di questa uscita, un premio importantissimo, grande, e allora ci vuole un po' più di cattiveria del solito. Tre tracce anche questa settimana di tre film diversi da indovinare, dovete dirci di che film si tratta e cosa li tiene insieme, qual è il loro elemento comune. Come sempre, al nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpurea @radio24.it, cominciamo con la prima traccia. Non capisco perché è così arrabbiato. Si tratta solo di qualche carota e di qualche cavolo. Ah, e di quei 3 sacchi di patate che abbiamo preso la settimana scorsa. E allora, questa è la prima traccia. Vogliamo farla risentire un attimo? Vediamo se così non hanno altre possibilità di sentire questa, così possono risentirla i nostri ascoltatori. Non capisco perché è così arrabbiato. Si tratta solo di qualche carota e di qualche cavolo. Ah, e di quei 3 sacchi di patate che abbiamo preso la settimana scorsa. Che film è? Cos'è in comune con quelli che sentirete dopo? Lo potrete scoprire solo dopo. Il nostro indirizzo è larosapurpurea@radio24.it. Allora, adesso il tempo che manca alla fine del nostro blocco con Boris Sollazzo lo dobbiamo passare, lo vogliamo passare per dare conto, purtroppo senza entusiasmo, ma questo personalmente mi accade da troppo tempo, di un nuovo film di Dario Argento, quello che è stato il maestro del brivido italiano, indiscusso in Italia, indiscusso all'estero, assolutamente un ambasciatore del genere. Per tanti anni, nelle ultime sue prove, insomma, ha lasciato abbastanza a desiderare. Tra l'altro, questa volta il film arriva nelle sale dopo essere arrivato in un video con vicissitudini giudiziarie, blocco e sblocco del film, debiti poi dopo risolti con il protagonista, che era un protagonista di razza, come Adrien Brody, un premio Oscar. Insomma, Giallo Argento, questo è il titolo, aveva un cast importante stavolta, Adrien Brody e Emmanuel Seigner, però ci ha messo 2 anni a trovare la via della sala in Italia e arriva probabilmente un po' con le polveri bagnate. Boris? Polveri bagnatissime quelle di Argento, dispiace tanto. Io senza mezzi termini dico che per me Argento è stato in un momento della sua vita il più grande regista probabilmente del mondo, è stato uno degli ultimi registi che ha cambiato il modo di girare, pensare e vedere il cinema. Ora non è più così e non lo è, temo, da almeno un paio di decenni. Gian Argento purtroppo non fa eccezione, un thriller in cui appunto lui tra l'altro decide anche contro le sue abitudini di prendere grandi attori, e devo dire, facendo tutaccia proprio per far capire insomma il livello del film, Adrien Brody aveva fatto bloccare il film perché non era stato pagato, almeno questo era quello che era trapelato. Vista la prestazione che ha dato in Giallo Argento, neanche io l'avrei pagato, francamente. E questo forse è il senso principale di un film del genere, riuscire a fare in modo che neanche uno come Adrien Brody, che non sbaglia un film, riesca a recitare bene, fa capire quanto possa essere stato infelice il progetto giallo, perché poi così si chiamava. Peccato, perché ci sono tutta una serie di cose anche interessanti, delle belle intuizioni all'Argento. Ci sta Torino, che è una bella città, una bella location per un film di Dario Argento, però hai sempre l'impressione ormai di vedere un genio assoluto che cerca di replicare qualcosa che forse è irreplicabile. Il problema vero di Dario Argento è stato forse proprio quello che da un certo momento in poi ha smesso di migliorare, ha smesso di cambiare, ha smesso di cercare nuove strade, ancorandosi a degli stilemi che però ormai purtroppo anche visivamente sono totalmente superati, e il cinema di oggi prevede stili diversi. Leggete un grande romanzo della metà dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, e vedrete un linguaggio che è superato, e questo è quello che è accaduto purtroppo, anche se rimanendo certe opere assolutamente monumentali. Infatti io invito, per capire bene cos'è stato Dario Argento, ad andare in videoteca e a prendersi uno dei suoi titoli clamorosi, così tanto per rifarsi un po' gli occhi. Grazie Boris, appuntamento la prossima settimana. Appuntamento la prossima settimana, un abbraccio a tutti. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, eccoci qua, come dicevamo, in una settimana così così sotto il profilo della proposta in sala. Ci sono un paio di notizie, di uscite, di grandi maestri che ci danno spunto per poter parlare di cinema, del cinema più importante, del cinema più grande, come quello di François Truffaut. François Truffaut, regista straordinario, amatissimo, imitatissimo, ma anche sul quale si è scritto molto, davvero molto, ma Ugo Casiraghi e Lorenzo Pellizzari hanno messo insieme un libro nuovo per l'Indau che si intitola Vivement Truffaut. Tra l'altro prende spunto il titolo da un film di Truffaut dell'inizio degli anni Ottanta, e questo Vivement è proprio il termine che ci dà un po' il senso di come la cinematografia del grande regista francese sia qualcosa di totalmente e attualmente ancora vivo. Un sottotitolo: cinema, libri, donne, amici, bambini. Insomma, ci sono i temi che sono stati cari alla produzione di François Truffaut. Prima di parlarne con Lorenzo Pellizzari, noi abbiamo isolato una clip di uno dei suoi film più amati, che è Jules Legime. Vieni qui, più vicino ancora. Baciami. Catherine, ho molte cose da dirti. Avanti. Ho trovato in un libro che mi avevi prestato un brano segnato da te. C'è una donna su di una nave che si dà col pensiero a un tale che non conosce affatto. Ciò mi ha colpito come una confessione. È così che tu esplori l'universo. Anch'io ho questo genere di curiosità. Forse tutti ce l'hanno. Ma io per te so farne a meno, mentre tu non lo sai fare per me. Anch'io penso che in amore la coppia non è affatto l'ideale. Lorenzo Pellizzari, benvenuto alla Rosa Purpurea. Allora, continui ancora il lavoro del grande Ugo Casiraghi, di cui hai preso proprio a una sorta di eredità letterario-artistica dopo la sua scomparsa, e ti sei fatto proprio interprete dei suoi libri e del loro rinnovamento, così come in questo caso con Vivement Truffaut. Cosa ancora da dire e cosa c'è di nuovo da scoprire anche, ti chiedo, di François Truffaut nel 2011? Ma io, secondo me, c'è da rivivere la sua opera e la sua biografia in un unico contesto. Cioè, credo che riesca a fare una cosa eccezionale, a raccontare una specie di romanzo della vita di Truffaut attraverso i suoi film, attraverso i temi che gli sono cari, appunto, come hai detto, le donne, i libri, gli amici, i bambini. E, il libro nasce nell'ambito di un progetto più vasto, che è quello appunto di recuperare le opere di Casiraghi che in vita non è riuscito a pubblicare. L'anno scorso abbiamo pubblicato un Antrischino, che era una bellissima storia del cinema nazista. Quest'anno appunto la volta di Truffaut, e nasce anche da un'occasione particolare, perché sono le schede che Casiraghi aveva scritto per l'Unità in accompagnamento alle videocassette che l'Unità nel 95 pubblicò, l'intera opera, tutti i 23 film di Truffaut. Sembrano cose effimere, cose destinate a scomparire come tutte le cose di questo genere, e invece vengono a comporre un libro unito, compatto e molto innovativo, secondo me. Bene, grazie allora Lorenzo Pellizzari. Ricordiamo il titolo del libro, Vivement Truffaut, edito da Lindau, una edizione totalmente rinnovata nelle librerie italiane. Grazie Lorenzo. Grazie a te, arrivederci. Ebbene, allora lasciamo Lorenzo Pellizzari e rituffiamoci nell'atmosfera del gioco con la seconda traccia di questo film, che è collegato in qualche modo ai quelli della prima e della prossima traccia. Voi dovete dirci di che film si tratta e cosa ha in comune con gli altri. Sentiamo. Non è facile da accettare la sua scomparsa, specialmente ora che tuo fratello ti ha abbandonata. Lasciami sola, serpente! Oh, ma tu sei sola. Avete già indovinato, avete capito che film è questo, che film era quello prima, cosa hanno in comune, cosa avranno in comune con la prossima traccia che vi faremo sentire fra poco. La Rosa Purpurea, @radio24.it. E allora, adesso cambiamo maestro del cinema. Abbiamo parlato con Lorenzo Pellizzari di François Truffaut, con questo libro nuovamente nelle librerie. Parliamo invece di un ritrovamento straordinario, perché nelle carte che la Cineteca di Bologna ha acquisito, come forse qualcuno di voi saprà, la Cineteca di Bologna è stata determinata dagli eredi della grande e monumentale opera di Charlie Chaplin come l'entità che deve gestire questo incredibile e inestimabile patrimonio fatto di film, di sceneggiature, di documenti. Ebbene, c'è chi alla Cineteca di Bologna si preoccupa proprio di questo, di guardare pian piano questa mole immensa di documenti per tirare fuori, catalogare, archiviare, capire che cosa è stato questo lascito. E Cecilia Cenciarelli, che è già in collegamento con noi, lo ha fatto, e ogni tanto, insomma, da questo lavoro, che è un lavoro metodico, meticoloso, quotidiano, vengono fuori dei documenti che possono davvero essere nuovi, importanti, e dare una luce diversa all'interpretazione non solo del lavoro ma anche del personaggio Charlie Chaplin. Cecilia, benvenuta alla Rosa Purpurea. Grazie, buongiorno. Allora, com'è stato trovare? Intanto parliamo di cosa stiamo parlando, perché così, visto che questa è radio e le cose non si vedono, dobbiamo raccontarle. Documenti che non è che siano nuovi, ma che hanno dato sicuramente una nuova luce all'opera di Charlie Chaplin e soprattutto al suo modo di rapportarsi agli attori sul set. Esatto, no, in realtà i documenti sono proprio nuovi, nel senso che sì, certo, esistevano ma non lo sapeva nessuno, quindi ecco, è realmente una scoperta. Sono dei documenti che non facevano, diciamo, parte del corpo dell'archivio, del corpo principale dell'archivio, che consta, ecco, pensate, di circa 130.000 pagine. Era una scatola che in realtà la famiglia Chaplin, quindi i figli di Chaplin, hanno riacquistato ad un'asta da Christie's, perché questi materiali, diciamo, erano stati un po' saccheggiati da un assistente alla regia di Chaplin, Robert Florey, che li aveva presi sul set. Non ci piace usare il verbo rubare, però diciamo li aveva sottratti dal set a mo' di souvenir, ecco, diciamo così. Quindi la famiglia ha riacquistato questa scatola è venuta a Bologna, così come il resto dell'archivio che noi qui cataloghiamo e digitalizziamo, e questa scatola non era poi però stata aperta, diciamo, in questi anni. Quindi nel corso di alcune nuove ricerche sul grande dittatore, in particolare modo sul processo di scrittura della sceneggiatura del grande dittatore, ci siamo imbattuti in questi tre fogli. La straordinarietà di questi tre fogli consiste nel fatto che si tratta veramente dell'unica traccia scritta, ma anche filmata, esistente di Chaplin che dirige un attore. Nella storia di Chaplin, quindi nelle interviste ai suoi collaboratori, ai suoi attori, diciamo dagli anni 20 al resto della sua carriera, c'è un'unica versione praticamente per tutti, cioè Chaplin utilizzava usava a dirigere i suoi attori come una sorta di estensione del suo stesso corpo. Lui era in primis su un performer, quindi in primis un attore, quindi utilizzava la tecnica di mostrare agli attori come recitare quella parte per poi permettere loro di copiare, insomma di imitare la sua parte interpretata. Ecco, questa è la prima volta che vediamo, che sentiamo delle indicazioni di natura diversa, quindi lui non mostra, in questo caso è Paulette Godard, in quegli anni, quindi parliamo del Grande Dittatore, 1940, ed è la scena finale del Grande Dittatore, quindi il discorso pacifista della fine del film, il discorso pacifista direi un po' per eccellenza della storia del cinema, e la scena è Paulette Godard che ascolta questo discorso pacifista, che ascolta questo discorso da un altoparlante, da una radio immaginaria, e deve passare in sostanza dalla disperazione alla speranza. Ecco, queste tre pagine illustrano come Chaplin la guida attraverso questa metamorfosi dalla disperazione alla speranza. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. Il Grande Dittatore, Charlie Chaplin, Cecilia, brevemente, può venire ancora fuori qualche sorpresa da questa immensa mole di documenti, insomma, che state lavorando? Senz'altro, ogni volta, ogni singola volta che apriamo un nuovo progetto, che studiamo un nuovo aspetto, ecco appunto, ripeto, sono 130.000 pagine, quindi anche se ci lavoriamo da 7-8 anni ormai, c'è sempre una nuova sorpresa. E non, a mio avviso non si tratta solo di curiosità dentro questo archivio, ma veramente la comprensione del fare cinema di Chaplin, della scrittura, della sua visione del cinema possono essere ancora completate di nuovi tasselli davvero molto interessanti. Grazie allora a Cecilia Cenciarelli dell'Archivio Cineteca di Bologna, responsabile di questo archivio e responsabile di questo studio su Charlie Chaplin. Grazie per essere stata con noi qui alla Rosa Purpurea. Grazie mille a voi. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua ancora, Rosa Purpure, ancora cinema su Radio 24, e come sempre noi chiudiamo la nostra trasmissione andando un po' a dare un'occhiata ai palinsesti televisivi della settimana successiva per vedere se c'è qualcosa da consigliarvi. Troviamo sempre qualche film importante da vedere o rivedere, magari anche con l'ausilio del videoregistratore, visto che spesso gli orari di trasmissione sono abbastanza proibitivi, ma il buon cinema si può anche vedere di notte. Allora, con gli amici del settimanale Film TV abbiamo come sempre isolato un paio di proposte dal palinsesto in chiaro gratuito della prossima settimana. Ci affidiamo allora per questi consigli a Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, bentornati con le segnalazioni di Film TV. Questa settimana proponiamo dei classici del cinema italiano, cominciando da domenica su Rai 3 alle 9.05 Le Notti Bianche di Visconti, che adatta l'omonimo romanzo racconto breve di Dostoevskij, racconto che ha ispirato parecchi film nel corso della storia del cinema, da Bresson fino ultimamente a James Gray, e ne ricava un melodramma trattenuto, freddo, esangue quanto sottilmente struggente, su individui che vedono nell'amore una via di fuga dalle strutture sociali. E tra l'altro il film è girato in una Livorno ricostruita molto suggestiva, tra nebbie enigmatiche e sospese. Straordinario film Le Notti Bianche, domenica 3 luglio, Rai 3 alle 9.05 del mattino, insomma un orario anche abbastanza possibile. Seconda proposta? La seconda segnalazione invece riguarda Federico Fellini. Iris infatti sabato propone una maratona dedicata a quello che è uno dei maggiori cineasti italiani, a partire dalle 14.20 con Lo Sceicco Bianco. Segue 8.30, quello che Morandini definì un Ben Hur del cinema d'avanguardia, in una felicissima sintesi. I Vitelloni, Amar Ricordi in prima serata, in seconda serata La Dolce Vita, uno dei testi fondamentali della modernità cinematografica, e infine Giulietta degli Spiriti in tarda notte. Quindi abbiamo la commedia, i retaggi neorealisti, le atmosfere sospese, etere, autobiografiche, in un viaggio nel cinema di un maestro capace di inventare un'estetica unica, un nuovo modo di concepire la settima arte e infine di creare un mondo assolutamente autosufficiente. E allora attrezzatevi, maratona veramente sulla Golden Age del cinema di Federico Fellini, da Otto e mezzo ai Vitelloni ad Amar Ricordi, La Dolce Vita, insomma c'è dentro proprio forse il meglio del meglio del grande maestro riminese, sabato 2 luglio su Iris a partire dalle 14:20. Grazie a Giulio San Giorgio. Ti ringrazio Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV. E allora, prima di passare a parlare di DVD, per quanto riguarda le uscite e le recensioni, noi siamo alle prese con la terza e definitiva traccia del singolare Blu-ray game di questa settimana. Vi abbiamo fatto sentire due tracce in precedenza, ora la terza. Diteci non solo di quali film si tratta, ma anche qual è il legame che li tiene insieme tutti e tre. Sentiamo. Vorrei che tu sorridessi di nuovo. Non piangere per coloro per cui è giunta l'ora. Tu vivrai per vedere questi giorni rinnovati. E allora la rosa purpura @radio24.it, come sempre inserite il vostro indirizzo per poi, nel caso siate i bravi e fortunati vincitori del sabato e della domenica, ricevere questo premio, questa volta davvero importante e ingente. E allora, andiamo a sentire che cosa avevamo proposto 7 giorni fa. Stiamo entrando nella suite del Doge. Non esagero nel dire che è stata quasi una seconda casa per Marcel Proust, Honoré de Balzac e grazie. Altri. Si trattava di The Tourist, eravamo andati indietro di poco tempo rispetto alle stagioni cinematografiche, lo hanno capito e indovinato per primi Giuseppe Rigato di Meolo, provincia di Venezia, e Matteo Grazioli di Varese, sono i due ascoltatori che riceveranno a casa appunto il Blu-ray di The Tourist, del quale ci facciamo raccontare tutto da Claudio Pofi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, eccellente la produzione da parte di 01 Rai Cinema, sia per il DVD ma soprattutto per il Blu-ray. In questo caso l'immagine è assolutamente strepitosa e fedele all'originale cinematografia. C'è questa doppia traccia audio italiano e inglese, sono entrambe in DTS ad alta risoluzione. Tanti gli extra, tra cui segnalo un incontro con il regista e cast sul set. Ci sono le riprese della serata di gala presente all'interno del film, varie scene d'azione, ma ci sono anche i titoli di testa in versione alternativa. E questo per quel che concerne allora il game della scorsa settimana, appunto The Tourist, che troverete in videoteca. Andiamo invece alle recensioni di questo weekend, cominciando con un film veramente particolare, veramente di una comicità adrenalinica e abbastanza surreale. Stiamo parlando di Lock and Stock, Pazzi Scatenati. L'anno è il 1998, alla regia c'era Guy Ritchie, prima ancora di diventare poi un regista così affermato come è stato con Sherlock Holmes, e a questo punto andiamo a sentire la clip. Soltanto uno di loro è armato quando fanno i colpi, quindi presumo che sarà armato solo uno quando torneranno dopo aver fatto il colpo. Ah, tu presumi, vero? E se ti dicessi che la presunzione è la sorella di tutte le fregature, bello? Dice la madre di tutte le fregature, madre, stupido. Sorella o che cavolo ti pare, rimane in famiglia. Non fa nessuna differenza. Sono sempre fottute armi, Eddie, che sparano sempre e comunque, fottute pallottole. Se per caso ti venisse un'idea migliore su come trovare 500.000 sterline nei prossimi giorni, faccelo sapere. Eddie ha la malattia per il gioco d'azzardo, maneggia le carte sin da bambino e assieme ad altri tre amici raccoglie 100.000 sterline per poter sedere al più importante tavolo della città, ignaro che sia abilmente truccato. Con 500.000 di sterline da restituire in pochi giorni a un feroce strozzino, il gruppo di amici escogita un folle piano dall'esito tragicomico. Meravigliosa black comedy che lanciò il regista inglese Guy Ritchie mettendo in luce l'attore Jason Statham. Nel cast però c'è anche il cantante Sting. Da CG un video all'uscita Blu-ray, ruvida con inquadrature metropolitane, eccellente resa dell'originale fotografia, audio alta risoluzione italiano inglese di maggiore qualità rispetto al DVD. Tra gli extra, interviste a truppe e cast e forse il più breve making of nella storia dell'home video, 58 secondi. Allora 1994 invece fece un salto indietro di qualche anno, quando arrivava nei cinema dall'Australia un film davvero dirompente, un vero drag queen musical, si intitolava Priscilla, la regina del deserto. Bene, fin da quando ero ragazzo ho fatto lo stesso sogno. Un sogno che adesso, finalmente, ho la possibilità di realizzare. E qual è, se è lecito? Arrivare fino al centro dell'Australia, scalare il King's Canyon, come una regina, in un bikini di Gautier con lustrini, tacchi a spillo e la tiara. Fantastico. È quello che mancava al nostro paese. Una stronza che si abbronza la patonza. No, state bravi, accuccia tutte e due. A Sydney, il maturo transessuale Ralph e le drag queen Anthony e Adam si esibiscono ballando, cantando in playback brani anni 70, indossano incredibili costumi di scena. Venuto a mancare il compagno di Ralph, i tre intraprendono una tournée su un torpedone, un viaggio attraverso sperdute lande australiane che permetterà a tutti di guardare al futuro con più positività. Nel cast il grande Terence Stamp, ma c'è anche un giovane Guy Pearce e addirittura Hugo Weaving, che poi interpreterà l'agente Smith in Matrix. Coloratissima agrodolce commedia, vincitore dell'Oscar per i migliori costumi, arriva in Blu-ray grazie a Fox Home Entertainment. La qualità d'immagine è di gran lunga superiore al DVD. C'è l'audio DTS in italiano e ad alta risoluzione in inglese come extra. Ci sono 30 minuti di documentario, divertenti immagini della lavorazione e scene tagliate. Grazie Claudio, allora appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E abbiamo chiuso, abbiamo finito qui la nostra corsa, la nostra maratona cinematografica qui alla Rosa Purpura in questa versione estiva, diciamo così, extended version potremmo dire, citando un termine che si usa in questi casi. L'appuntamento è alla prossima settimana, come sempre il sabato ci troviamo una mezz'oretta prima, alle 17.30, per l'ospite della settimana, sempre grandi registi, grandi nomi del cinema, e abbiamo una sorpresa dalla Francia per la prossima settimana, e invece poi la domenica in replica dalle 15, l'ora di cinema, di attualità cinematografica della Rosa Purpura. Un saluto da Franco D'Assisti.